Capitolo 156esimo. Medea a Efira. Giasone si recò dapprima a Orcomeno, in Beozia, dove appese il vello d'oro nel tempio di Zeus, l'Afistio. Poi portò in secco l'argo sull'istmo di Corinto e la dedicò a Posidone. Ora Medea era l'unica sopravvissuta dei figli di Eete, il legittimo re di Corinto, che emigrando nella Colchide aveva affidato la reggenza a un certo Buno. Morto senza discendenti, l'usurpatore Corinzio, figlio di Maratone, che si diceva figlio di Zeus, Medea avanzò i suoi diritti al trono vacante e i Corinzi accettarono Giasone come loro re. Ma dopo aver regnato per 10 prosperi e felici anni, Giasone cominciò a sospettare che Medea si fosse assicurata la successione al trono avvelenando Corinzio e propose di divorziare da lei per sposare la Corinzia Glauce, figlia di re Creonte. Medea, pur non negando di aver commesso il delitto, ricordò a Giasone il giuramento da lui pronunciato ad Ea in nome di tutti gli dei, e quando egli protestò che un giuramento pronunciato per forza non era valido, Medea gli fece notare che egli doveva a lei anche il trono di Corinto. «È vero», rispose Giasone, «ma i Corinzi mi rispettano assai più di te». Medea, fingendosi rassegnata, mandò a Glauce un dono di nozze per mano dei suoi figli, poiché aveva avuto da Giasone 7 maschi e 7 femmine, e cioè una corona d'oro e un lungo manto bianco. Non appena Glauce li ebbe indossati, subito si levarono fiamme indomabili che non soltanto divorarono Glauce, benché essa si gettasse a capofitto nella fontana del cortile, ma anche re Creonte, un gruppo di nobili ospiti tebani e chiunque altro si trovasse nel palazzo, eccettuato Giasone, che fuggì saltando da una finestra. A questo punto Zeus, ammirato per il coraggio e le risorse di Medea, se ne innamorò, ma essa respinse tutte le sue proposte. Era gliene fu grata. «Renderò immortali i tuoi figli», le disse, «se li sacrificherai sull'altare del mio tempio». Medea obbedì e poi fuggì sul cocchio trainato da alati serpenti che il nonno Elio le imprestò dopo aver affidato il regno a Sisifo. Si ricorda soltanto il nome di una delle figlie di Medea e di Giasone, Eriopide. Il figlio maggiore di Medea, Medeo o Polisseno, che fu allevato da Chirone sul monte Pelio, in seguito regnò sulla terra di Media, ma taluni sostengono che il padre di Medeo fosse Egeo. Gli altri figli erano Mermero, Ferete o Tessalo, Alcimede, Tisandro e Argo, e i Corinzi furibondi per l'assassinio di Glauce e di Creonte li presero tutti e li lapidarono a morte. Da quel giorno, in espiazione di codesto crimine, 7 ragazzi e 7 fanciulle corinzi, vestiti di nero e col capo rasato, trascorrono un intero anno nel tempio di Era delle alture dove fu commesso il delitto. Per ordine dell'oracolo delfico, i cadaveri dei fanciulli uccisi furono sepolti nel tempio, ma le loro anime divennero immortali, come Era aveva promesso. Vi sono alcuni scrittori che accusano Giasone di aver perdonato quel massacro, ma spiegano che egli era irritato oltre misura dalle mire ambiziose che Medea nutriva per i suoi figli. Altri ancora, fuorviati dal drammaturgo Euripide, che i Corinzi corruppero con 15 talenti d'argento perché li assolvesse da ogni colpa, pretendono che Medea uccise soltanto 2 dei propri figli e che altri perirono nell'incendio del palazzo salvo Tessalo, che fuggì e in seguito regnò su Iolco, dando il suo nome a tutta la Tessaglia, e Ferete, il cui figlio Mermero, ereditò l'abilità di avvelenatrice di Medea. Il numero dei figli di Medea ricorda quello dei titani e delle titanesse, ma i 14 tra ragazzi e ragazze che venivano annualmente confinati nel tempio di Era rappresentavano probabilmente i giorni pari e i giorni dispari della prima metà del mese sacro. La leggenda della morte di Glauce fu forse tratta da una raffigurazione che illustrava l'olocausto annuale nel tempio di Era, simile a quello di Ierapoli descritto da Luciano. Ma Glauce era probabilmente la sacerdotessa dalla fronte cinta da diadema che presiedeva alla cerimonia, e non la vittima del sacrificio, mentre il tuffo nel pozzo rappresentava il suo bagno rituale. Luciano spiega che la dea siriaca si identificava con Era, benché avesse alcuni degli attributi di Atena e di altre dee. In questo caso Eriopide, dai grandi occhi, si ricollega a Era dagli occhi bovini e Glauce, civetta, ad Atena. Ai tempi di Luciano, animali domestici venivano appesi ai rami degli alberi nel cortile del tempio di Ierapoli e arsi vivi. Ma la morte dei 14 figli di Medea e il conseguente sacrificio espiatorio lasciano supporre che in origine si offrissero vittime umane. Melicerte, il dio cretese che presiedeva ai giochi istmici a Corinto, era Melkart, protettore della città, l'Eracle Fenicio, e il cui nome venivano certamente arsi vivi dei fanciulli a Gerusalemme. Il fuoco, elemento sacro, rendeva immortali le vittime. Ecco perché Eracle stesso salì sul rogo del monte Eta e vi si sdraiò lasciandosi consumare dalle fiamme. In seguito, quando Medea non fu più identificata con Ino, madre di Melicerte, e i sacrifici umani denotarono barbarie, divenne assai importante stabilire se Medea stessa, Giasone o i Corinzi sacrificavano fanciulli. Poiché ogni dramma che vincesse un premio alle annuali feste ateniesi in onore di Dioniso acquistava ipso facto un valore religioso e faceva testo nell'argomento, è molto probabile che i Corinzi ricompensassero Euripide per la sua abile e generosa manipolazione di un mito ormai screditato. L'amore di Zeus per Medea, così come l'amore di Era per Giasone, lascia supporre che Zeus ed Era fossero gli appellativi del re e della regina di Corinto. Corinzio, benché figlio di Maratone, era anche detto figlio di Zeus e il padre di Maratone, Epopeo, colui che vede tutto, aveva la stessa moglie di Zeus.